国国际广播电台 Qui Radio Cina Internazionale。 State ascoltando Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, ben ritrovati. Ecco il sommario delle principali notizie odierne. Gli Stati Uniti diffondono teoria della minaccia militare cinese. Siria. L'opposizione condanna gli attacchi aerei israeliani. Alle notizie seguiranno una pagina di commento, le rubriche Zoom sull'economia cinese e cinese per ogni giorno. Eccovi ora il nostro notiziario. Il 7 maggio a Beijing, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha affermato che il Ministero della Difesa degli Stati Uniti rende noti ogni anno dei rapporti sulla Cina per diffondere la cosiddetta teoria della minaccia militare cinese. Questo non favorisce la fiducia reciproca e la cooperazione delle due parti. La parte cinese si oppone fermamente a tali azioni e ha già presentato le proprie rimostranze agli Stati Uniti. Secondo quanto appreso, giorni fa il Ministero della Difesa americano ha pubblicato il rapporto sullo sviluppo militare e della sicurezza cinese. Hua Chunying ha dichiarato che la Cina, che segue da sempre la strada dello sviluppo pacifico e applica politiche di difesa nazionale di tipo difensivo, è una forza ferma per la salvaguardia della pace e della stabilità dell'Asia Pacifica e del mondo intero. La Cina impronta la propria difesa nazionale partendo dalle proprie necessità. Essa è necessaria e appropriata, ed è unicamente finalizzata alla salvaguardia della propria indipendenza, sovranità e integrità territoriale, diritto legittimo di uno Stato sovrano. Il 7 maggio, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, durante la conferenza stampa di routine, ha indicato che, sulla base delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Cina ha verificato e pubblicato i punti e le linee base del territorio marittimo dell'isola Diaoyu e delle sue isole annesse, le quali sono pienamente conformi alla legge e alla pratica internazionali. Hua Chunying ha indicato che l'isola Diaoyu e le sue isole annesse sono territorio della Cina sin dall'antichità e la Cina ne possiede la sovranità indiscutibile. Il 6 maggio, in occasione della pubblicazione del rapporto sulle forze militari cinesi, il Pentagono, tramite l'assistente del vice ministro del Pentagono responsabile agli affari asiatici, David Haley, ha dichiarato nuovamente che gli Stati Uniti persistono nel ritenere che le isole Diaoyu siano sotto amministrazione del Giappone. L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha sottolineato che la Cina non ha mai riconosciuto la sovranità e il diritto amministrativo del Giappone sulle isole Diaoyu, o viene che ha esposto più volte agli Stati Uniti e che è il Giappone a rendere la situazione così tesa. Il 6 maggio a Damasco, Nasser, alto funzionario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per il Cambiamento Democratico, la maggiore organizzazione dell'opposizione siriana, ha condannato gli attacchi aerei israeliani del 5 maggio su Damasco e invitato la comunità internazionale a adottare delle misure per contenere Israele. Secondo quanto riportato dai media siriani, alle prime ore del 5 scorso, Israele ha lanciato degli attacchi aerei contro tre sedi militari siriane, che hanno provocato un gran numero di morti e feriti fra i civili e enormi perdite materiali. La comunità internazionale segue da vicino la situazione e invita Israele e Siria a mantenere l'autocontrollo. In merito all'affermazione della Siria, che risponderà ai raid di Israele. Il 7 maggio, a Beijing, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha detto che la parte cinese invita le parti interessate a rispettare concretamente la sovranità e l'integrità territoriale della Siria, a mantenere la calma e l'autocontrollo, e a evitare l'uso della forza così da svolgere un ruolo responsabile e costruttivo per la soluzione politica del problema siriano. Hua Chunying ha aggiunto che la parte cinese segue da vicino gli sviluppi della situazione in Siria. La Cina ritiene coerentemente che la soluzione politica sia l'unica via d'uscita corretta del problema siriano, per cui invita le parti interessate a far perno sugli interessi fondamentali del popolo siriano, iniziando al più presto il dialogo politico e attuando la transizione politica. Secondo quanto riportato il 7 maggio dalla Korean Central News Agency, il comando del fronte sud-occidentale dell'esercito popolare nordcoreano ha pubblicato un comunicato nel quale condanna gli Stati Uniti e la Corea del Sud di continuare a svolgere esercitazioni militari rivolte alla Corea del Nord. Nel comunicato si aggiunge che gli Stati Uniti e la Corea del Sud persistono nelle provocazioni militari programmatiche e intendono orientare l'attuale Stato, prossimo alla guerra verso, a una reale dichiarazione di guerra. Il comando del fronte sud-occidentale dell'esercito popolare nordcoreano ha ordinato a tutte le truppe sotto il loro comando: se i nemici dovessero provocarci bombardando le acque sud-orientali, la Corea del Nord contrattaccherà immediatamente. La mattina del 6 maggio, ora locale, il presidente sudcoreano Park Geun-hye ha avuto un incontro con il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Si tratta della sua prima visita alla sede generale dell'ONU dal suo insediamento alla presidenza. Secondo quanto illustrato dalla portavoce di Ban Ki-moon, il problema nordcoreano è stato il tema principale dell'incontro. Per l'occasione, Park Geun-hye si è detto determinata a risolvere il problema della penisola tramite la costruzione della fiducia reciproca e del dialogo. Dal canto suo, Ban Ki-moon ha espresso un energico appoggio in merito e la speranza di contribuire all'eliminazione della tensione e alla promozione della pace e stabilità nella penisola coreana. Il 6 maggio la Commissione europea ha approvato un pacchetto di proposte legislative per rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare. Secondo quanto indicato dalla Commissione europea, il pacchetto comprende 5 leggi e regolamenti che interessano l'intero processo alimentare dalla produzione al consumo e fissano regole dettagliate e efficaci sulla supervisione del governo, sulla sicurezza dei generi alimentari di origine animale e vegetale e sul sistema finanziario collegato agli alimenti e ai mangimi. Secondo il piano, il pacchetto diventerà operativo nel 2016. Dal rapporto pubblicato il 6 maggio a Beijing dal Fondo Monetario Internazionale emerge che attualmente i rischi finanziari globali si sono attenuati e l'ambiente finanziario è migliorato. I capitali ritornano in Asia e le attività economiche riprendono. Un responsabile relativo del Fondo Monetario Internazionale ha affermato che nei prossimi 1 e 2 anni le prospettive economiche dell'Asia saranno migliori rispetto all'anno scorso. Le misure adottate dalla Cina di aumento della domanda interna e di raggiungimento della struttura economica sono corrette, perché la crescita economica cinese non può dipendere perennemente dagli investimenti e dall'esportazione. I dati resi noti il 6 maggio dal German Trade and Invest dimostrano che nel 2012 la Germania ha attirato investimenti esteri per 854 progetti, tra cui 98 in capitali cinesi. Con questa cifra, la Cina si colloca al terzo posto della graduatoria. Inoltre, secondo un rapporto pubblicato nello scorso aprile dalla Fondazione Bertelsmann, negli ultimi anni gli investimenti diretti cinesi in Germania hanno visto un continuo aumento. Si prevede che nel 2020 la quota potrebbe raggiungere i 2 miliardi di dollari. Nel distretto di Lushan, nella provincia cinese dello Sichuan, il più colpito dal terremoto di magnitudo 7,0 dello scorso 20 aprile, l'approvvigionamento di acqua e di elettricità dei 125.000 abitanti è del tutto garantito, come pure la completa copertura dei servizi sanitari. Secondo quanto appreso dal governo della città di Yan'an, nel Sichuan, le zone terremotate sono ormai entrate nella fase cruciale della sistemazione temporanea. Alle ore 17 del 5 maggio, i quasi 730.000 sinistrati della città hanno tutti ottenuto una sistemazione. Il presidente e amministratore delegato della società Airbus, Fabrice Brie, in visita in Cina pochi giorni fa, ha affermato che nello sviluppo del settore aereo in futuro si vedrà ulteriormente la forza cinese. Questo riflette non solo il tasso di crescita del trasporto aereo in Cina di oltre il doppio rispetto alla cifra mondiale, ma l'ulteriore integrazione dell'industria dell'aviazione cinese a livello mondiale. Radio Cina Internazionale, amici ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cri.cn oppure italian.cri.cn. Pagina di commento. Il 6 maggio a Beijing, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un incontro con il suo omologo palestinese Mahmoud Abbas. Durante l'incontro Xi Jinping ha affermato che la questione palestinese è il punto focale della questione medio orientale e ha quindi avanzato una proposta in 4 punti per la risoluzione del problema palestinese. Ecco di seguito i 4 punti della proposta. Primo, persistere nella giusta direzione della costituzione dello Stato indipendente della Palestina e della coesistenza pacifica con Israele. Secondo, i negoziati devono essere l'unico canale per realizzare la pace fra i due paesi. Terzo, persistere con decisione secondo il principio del territorio in cambio della pace. Quarto, la comunità internazionale della questione medio orientale e ha quindi avanzato una proposta in 4 punti per la risoluzione del problema palestinese. Ecco di seguito i 4 punti della proposta. Primo, persistere nella giusta direzione della costituzione dello Stato indipendente della Palestina e della coesistenza pacifica con Israele. Secondo, i negoziati devono essere l'unico canale per realizzare la pace fra i due paesi. Terzo, persistere con decisione secondo il principio del territorio in cambio della pace. Quarto, la comunità internazionale deve fornire un'importante garanzia per la promozione del processo di pace. Hua Limin, ricercatore ospite dell'Istituto Cinese di Questioni Internazionali ed ex ambasciatore della Cina in Iran, ritiene che i 4 punti riflettano da un lato la posizione coerente della Cina sulla questione palestinese e la grande importanza attribuitagli dalla nuova generazione di leader cinesi. Si noti che è la prima volta che vengono proposti questi 4 punti a nome del massimo leader cinese. Ciò dimostra a pienà che l'interesse della Cina nella questione Medio Oriente è in continuo aumento. I fatti dell'anno scorso, ossia la guerra lungo la Striscia di Gaza e la domanda avanzata dalla Palestina per entrare a far parte dell'ONU, hanno lanciato un allarme alla comunità internazionale, ricordando che lo scontro tra Palestina-Israele è ancora una questione che riguarda il quadro generale e costituisce potenzialmente una grande minaccia contro la pace del Medio Oriente e del mondo. Dei 4 punti proposti, il primo indica che persistere nella costituzione di uno Stato palestinese indipendente è un punto cruciale per la risoluzione del problema. Al contempo, il diritto all'esistenza e il ragionevole interesse per la sicurezza di Israele devono essere pienamente rispettati. Secondo Hua Limin, questa posizione corrisponde agli interessi dei due paesi, ma per realizzare questo obiettivo occorrerà trovare un compromesso. Il conflitto tra Palestina e Israele riguarda il problema del diritto all'esistenza dei due paesi. Siccome una parte del territorio palestinese è stato occupato, milioni di profughi sono stati cacciati dal loro paese e da tempo Gerusalemme, terra santa per la Palestina e per i paesi arabi e i musulmani di tutto il mondo, è tuttora occupata. Israele, dal canto suo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è riuscito finalmente con gran fatica a crearsi un proprio paese e che da sempre alla ricerca di una sicurezza assoluta. Ha adottato delle misure che hanno violato i diritti e gli interessi della popolazione araba. Per questi motivi le due parti dovranno trovare un compromesso. Secondo Xi Jinping, Israele e Palestina devono rispettare lo spirito dell'epoca e persistere lungo la strada della riconciliazione. Uno dei lavori più urgenti per riavviare i negoziati è adottare delle misure pratiche al problema, fra le quali lo stop alla costruzione degli insediamenti. In merito, il vice direttore dell'Istituto Cinese di Relazioni Internazionali Moderne, Li Shaoxian, ritiene. Negli ultimi anni, in realtà, la comunità internazionale ha lavorato per Negli ultimi anni, gli sforzi fatti dalla comunità internazionale per promuovere la ripresa dei negoziati tra Palestina e Israele non sono stati mai interrotti, anche se i risultati finali non sono mai stati soddisfacenti e ogni volta il fallimento era dovuto alla questione dello stop alla costruzione dei insediamenti. Ciò costituisce al momento un ostacolo reale alla ripresa del processo di pace in Medio Oriente. Per questo motivo, il presidente cinese Xi Jinping ha avanzato questa proposta. Li Xiaoxian ritiene che, come Roma non è stata costruita in un giorno, così la soluzione della questione palestinese oggi non può essere realizzata solamente da Israele e Palestina. Per questo, nella sua proposta, Xi Jinping parla del ruolo importante della comunità internazionale nell'offrire una garanzia per il processo di pace in Medio Oriente. Va detto che la Cina ha sempre un ruolo attivo nella questione del processo di pace in Medio Oriente e nei negoziati tra Palestina e Israele. Il primo inviato speciale nella storia della diplomazia cinese è stato proprio l'inviato per la questione Medio Oriente e il suo compito principale è la promozione del processo di pace. Il nostro ruolo è da sempre quello di promuovere i negoziati fra i due paesi, impegno riconosciuto dall'intera comunità internazionale. Radio Cina Internazionale trasmette quotidianamente sulle onde medie dalle 19 alle 20 ora italiana sulla frequenza di 1458 kHz. Zoom sull'economia. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, ben ritrovati al nostro Zoom sull'economia cinese. Sono Chen Jian. Cari amici, il Guangdong, il Guangxi, il Fujian e Hainan sono quattro province costiere del sud della Cina che, rispetto all'entroterra, vantano un'economia piuttosto sviluppata e degli scambi con l'estero molto attivi. Facciamo l'esempio della provincia del Guangdong. All'avanguardia nella riforma ed apertura cinese è una delle zone dal più alto livello di internazionalizzazione. Dopo oltre 30 anni di apertura, il volume dell'import-export e l'ammontare dei capitali esteri utilizzati dalla provincia occupano rispettivamente uno terzo e uno quarto a livello nazionale. In particolare, il volume dell'import-export per 18 anni consecutivi è stato il più alto della Cina, quindi la provincia è ormai una delle zone del paese dallo sviluppo economico più rapido, dal commercio estero più sviluppato e dal mercato più vivace e interessante per gli investitori. In merito, i risultati della cooperazione fra il Guangdong e l'Italia sono eccellenti. Nel 2010 il volume dell'import-export bilaterale ha raggiunto i 7,564 miliardi di dollari americani, pari al 1/6 del totale fra i due paesi. Gli scambi e la cooperazione tra le due parti nei campi economico, culturale e sociale si sono rapidamente sviluppati, tra cui spiccano la joint venture Guangdong Automobile Group Fiat e l'organizzazione congiunta della Quarta China International SME Fair. Oltre al Guangdong, anche i Guangxi, il Fujian e Hainan continuano a rafforzare la cooperazione con l'Italia, creando sempre più opportunità di mutuo vantaggio sullo sfondo della continua integrazione economica mondiale. Il Consolato Generale d'Italia a Guangzhou, che rappresenta il governo italiano nelle quattro province, ha sempre dato dei grandi contributi per promuovere i contatti e il collegamento tra queste province cinesi e le regioni, province e città italiane, aumentare l'amicizia tra i popoli italiano e cinese e promuovere lo sviluppo della partnership strategica sino-italiana. Allora, sullo sfondo della globalizzazione economica e sulla base della cooperazione esistente tra le due parti, in che campi devono impegnarsi l'Italia e le quattro province per sfruttare le potenzialità di cooperazione? Su cosa devono concentrarsi? Risponderà a queste domande il Console Generale d'Italia a Guangzhou, Benedetto Latteri, che abbiamo intervistato per voi. Cari amici, entreremo nel vivo dell'argomento subito dopo la pausa musicale. A fra poco! 间像永远，谁让未来像从前，视而不见别的美，生命的画面停在你的脸，不曾迷得那么醉，不曾寻得那么累，如果这爱是误会，今生别的事我不想再了解。年华似水，匆匆一瞥，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回，莫忘那天你我之间。 Prima di tutto possiamo sapere amministrativamente in quale provincia copre il Consolato Generale d'Italia in Guam? Questa è una bella domanda, perché posso dire una novità molto recente. Ah, sì. La competenza del Consolato fino all'altro giorno era il Guangdong, il Fujian, Guangxi e Hainan. Ma adesso, con un'intesa con le autorità centrali cinesi, sì, la competenza del consolato si estende anche a Hunan e Jiangxi. Ah, la mia provincia di Ho appena capito. Quindi quelli che devono richiedere i visti per l'Italia. Il visto è una cosa importante, sì. E quindi gli abitanti di Hunan e di Jiangxi, fra qualche giorno, fra qualche tempo, potranno venire a Guangzhou a chiedere il loro visto. Okay. Riguarda anche naturalmente gli italiani che sono residenti in queste due nuove province per me. Uh-huh. E si tratta di un allargamento molto importante. Uh-huh. Da 250 milioni di abitanti cinesi, adesso il consolato lavorerà per circa 300 milioni. Ho capito. Allora possiamo sapere come sta andando, diciamo, la cooperazione e gli scambi tra queste province? Sicuramente Hainan, Fujian e Guangdong, perché Hunan è appena... Sì, cioè come sta andando la cooperazione? Sta andando molto bene, molto bene. Ma potrebbe andare ancora meglio. Sì. sì. Cioè, in genere è molto buona con il Guangdong, perché il Guangdong è più avanzato, sì. Ha un'economia più matura e più avanzata. Sì. Va abbastanza bene con il Fujian, sì. E ha uno stato iniziale con il Guangxi e Hainan. Mm-hmm. Ma abbiamo dei progetti in tutte e quattro le province. E naturalmente ho già pronti dei progetti con le due nuove province di Hunan e Jiangxi. E puoi rivelare qualche informazione su questi progetti? Oppure... Sì, no, non c'è niente di segreto. Il lavoro della rete diplomatica consolare è molto aperto, e serve per aiutare le popolazioni e le ditte, le imprese di un paese o di un altro a comunicare. Questo è il nostro fondamentale lavoro. Per esempio, una collaborazione sulla sicurezza alimentare, ci piacerebbe che il know-how italiano fosse accolto in Cina. Lo facciamo nel resto della Cina, ma lo faccio anche nelle province di mia competenza. Progetti di carattere culturale. Stiamo organizzando un progetto molto importante che porterà in Cina un numero grosso, 30 autori, artisti, scultori italiani di arte contemporanea, e comincerà tutto da Guangzhou. Poi c'è un settore turistico che è promettente, insieme alla cantieristica, alla diportistica, parliamo di yacht. I yacht cominciano a essere un bene molto richiesto in Cina, e l'Italia è la prima al mondo a costruire gli yacht più belli e più funzionali, quindi su questo stiamo anche lavorando molto. Sono appena stato a Sanya, e lì si è parlato di una joint venture tra quattro imprese italiane e un investitore cinese per creare un centro di servizi a favore degli yacht che sono in questa parte della Cina. situazione delle tre province precedenti, le quattro in competenza del consolato generale, sono diciamo le zone costiere della Cina, dove l'economia è abbastanza sviluppata. Allora, secondo lei, che tipo di opportunità potranno apportare alle imprese italiane? Sono quattro province molto importanti, ognuna con delle caratteristiche. Sì. Il Guangdong è molto manifatturiero, sì, e ci sono tantissime aziende italiane che aiutano l'economia cinese e hanno investito nel Guangdong in termini di know-how, in termini di ricerca e sviluppo. Ci sono dei nomi importanti, per esempio la Luxottica è la prima azienda al mondo nella costruzione di occhiali, sì. Una delle sedi principali della Luxottica è a Dongguan. C'è la Magneti Marelli, che è un'azienda italiana molto grande, fa parte del gruppo Fiat e costruisce in Cina, specialmente in Guangdong, componenti elettrici e elettronici di praticamente tutte le macchine del mondo. Tutte le macchine al mondo, le fabbriche, hanno bisogno di componenti elettrici e elettronici. La Magneti Marelli produce per quasi tutte queste case produttrici. È uno stabilimento importante, è qui vicino all'aeroporto di Guangzhou. Quindi il Guangdong è manifatturiero. Hainan è turistico, sì. Turistico, e adesso, come ho detto prima, è con la cantieristica e la diportistica. E nel Fujian c'è molto da lavoro per i marmi. Nel Guangxi, e poi in avvio la collaborazione, ma c'è un settore automotive, costruzione di macchine, che è molto favorevole, alla collaborazione con l'Italia. Quindi sono situazioni diverse, ciascuna delle province ha bisogno di un grado diverso di collaborazione e di assistenza. Con la Hunan invece, che è dell'entroterra cinese, è molto interessante. Intanto a Changsha c'è lo stabilimento, un joint venture tra la Fiat italiana, sì, e la Guangzhou Automotive Company, per la costruzione di un modello di macchina per il mercato cinese. In italiano si chiama Viaggio, in cinese non lo ricordo bene. Però è l'inizio di una collaborazione che sta crescendo, e questo è un bene per Hunan, è un bene anche per l'Italia. Nel Jiangxi c'è un settore che è importante, il Jiangxi in particolare ha una buona posizione di terra e aria, sì, e questo potrebbe essere di interesse per una collaborazione, stabilire una buona collaborazione con l'Italia. Okay. Yeah. 百转千回，我望那天你我之间。 Parliamo un po' della cooperazione tra Guangzhou, cioè questa città comunitaria. Abbiamo, diciamo, la cooperazione tra Guangzhou Automobile Group e Fiat. Abbiamo anche il signor Rippi che è venuto qui nella città come allenatore. Secondo lei, quali sono stati i motivi per cui tra Italia e Guangzhou esiste cooperazione così di successo, così importante? Ci sono tanti motivi. Sì. Il primo e principale è che si tratta di elementi vincenti, di personaggi o situazioni molto speciali, di qualità molto alta. E se il gruppo Onida, che è un gruppo molto importante nel panorama cinese, ha provato il meglio che l'Italia ci ha per quanto riguarda l'allenamento calcistico, significa che due primi si sono incontrati. Se la Fiat, che è la casa automobilistica più importante in Italia, ha trovato un'intesa qui nel Guangzhou, nel Guangdong, significa che c'è un interesse importante da sviluppare. È un po' come il matrimonio, due persone si trovano perché sono speciali tra di loro. Sì. E questo riguarda, moltiplicato per tanti esempi, questo riguarda un po' una storia che si è sviluppata negli anni, nei secoli, tra Cina e Italia. Si sono trovate sempre dei momenti di grande intesa e di reciproco beneficio. Il mio compito è quello di favorire e di portare a livelli sempre più alti questa collaborazione. Just 变得怎么样，只要有你将会是解答。 Sicuramente ha già dato molti contributi o ha compiuto già molti sforzi per tutto quanto, no? Ho compiuto degli sforzi, non so se ho portato dei contributi, questo riguarda il giudizio dei miei superiori. Il mio giudizio è assolutamente positivo. Comunque, allora, adesso vogliamo chiedere un'altra domanda: com'è la sua vita a Guangzhou? È molto varia, è molto stimolante. Io mi trovo molto bene a Guangzhou, sono quasi 2 anni che lavoro a Guangzhou. Ho provato delle fortissime similitudini con la mia terra. So che può sembrare sorprendente, ma se si pensa al momento che Guangzhou è il sud della Cina e io vengo dalla Sicilia, che è il sud dell'Italia, vi dico al vostro pubblico che ci sono delle fortissime similitudini tra le abitudini della gente e nell'attitudine delle persone che incontro. A lei piace il calcio? A me piace il calcio, giocavo a calcio da ragazzo come tutti i ragazzi italiani, sì. e poi a causa del mio lavoro e il fatto di vivere all'estero mi sono un po' allontanato dalla mia squadra del cuore e ho riservato la mia attenzione solamente per la squadra nazionale italiana per le partite internazionali. Okay, ho capito. Allora, come considera l'atmosfera nel settore calcistico di Guangzhou? La considero gioiosa, la gioiosa come tanti aspetti della Cina che ho conosciuto e apprezzato. La considero scevra, senza quella aggressività che c'è in tante altre parti del mondo. La considero ancora sufficientemente sana di una competizione sportiva che guarda alla competizione e non a tanti altri aspetti del calcio. Deve crescere dal punto di vista qualitativo, ma sono fiducioso che la Cina, come in tanti altri settori, crescerà bene e molto velocemente. Okay. L'ultima domanda: ha sentito la passione dei tifosi di Guangzhou per il signore Lippi? Sì. Sì. In che senso? Sono stato a qualche partita, sì. Ed è vibrante, si sente quando entra la squadra, quando entra l'allenatore. C'è stata una crescita di interesse da quando c'è Marcello Lippi qui a Guangzhou, ed è divertente notarlo. Ed è piacevole essere parte di questo nuovo slancio, di questi sentimenti. Cinese per ogni giorno. Studiamo il cinese sulla base della nostra lingua madre, l'italiano. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, benvenuti al programma Cinese per un giorno, sono Shan. Ciao a tutti, sono Ilenia. Nella lezione scorsa abbiamo imparato delle domande in cinese relative all'asilo. Per esempio, per chiedere c'è l'autobus navetta, in cinese vuoi dire Yǒu mèi yǒu bān chè? Yǒu mèi yǒu bān chè? Bān chè, autobus navetta. Bān chè. 每天几点接送? 每天几点接送? A che ora prendete e riportate il bambino? 几点? A che ora? 几点? 接送 vuol dire prendere e riportare. 接送。 端午节我们放三天假。Per la festa delle barche drago facciamo 3 giorni di vacanza. 端午节我们放三天假。 端午节 festa delle barche drago. 端午节 放三天假。Facciamo 3 giorni di vacanza. 放三天假。 Alla fine, se il tuo bambino vuole presentare un biglietto d'auguri al maestro, puoi dirgli: 这张贺卡送给您。 这张贺卡送给您。 这张贺卡 questo biglietto di auguri. 这张贺卡 送给您 per lei. 送给您。Il nostro ripasso termina qui. Ora passiamo alle frasi chiave di oggi. Yǒu wèn pǐ ma? Zhè ge zì shì shěn me yì sì? Qǐng nín zài shuō yǐ biàn. Qǐng màn yì diǎn shuō. Shan, studio cinese nel tempo libero, ma ritengo che sia più facile con l'aiuto di un insegnante. Voglio dire, è più efficace. Potresti dirmi alcune espressioni cinesi di domanda all'insegnante? Certo. Forse hai delle domande da fare, come all'estero. Devi prima alzare la mano, al che l'insegnante ti chiederà. Yǒu wèn tǐ ma? Hai delle domande? Yǒu wèn tǐ ma? Yǒu vuol dire avere. Yǒu. Wèn tǐ, quarto e secondo tono, significa domanda. Wèn tǐ. Ma è una tipica particella interrogativa. Ma. Yǒu wèn tǐ ma? Yǒu wèn tǐ ma? Hai delle domande? 王老师好。 你好，有问题吗？ Yǒu wèn tǐ vuol dire avere delle domande. Yǒu wèn tǐ? Yǒu wèn tǐ ma? Hai delle domande? Yǒu wèn tǐ ma? 王老师好。 你好，有问题吗？ Vorrei sapere come si dice in cinese cosa significa questo carattere. 这个字是什么意思？ 这个字是什么意思？ 这个 questo 这个 字 carattere cinese 字 是 essere 是 什么 cosa 什么 意思 quarto tono e tono leggero indica significato 意思 这个字是什么意思？ 这个字是什么意思？Cosa significa questo carattere? 这个字是什么意思？ 我来给你解释一下。 这个 questo 这个 是 essere 是 什么意思？ Cosa significa? 什么意思？ 这个字是什么意思？ Cosa significa questo carattere? 这个字是什么意思？ 这个字是什么意思？ 我来给你解释一下。 Se c'è bisogno che l'insegnante spieghi un'altra volta, come si dice in cinese? Potrebbe ripetere? 请您再说一遍。 请您再说一遍。 请 prego。 请 您lei。 您 再 quarto tono di nuovo。 再 说 primo tono parlare dire。 说 一遍 una volta。 一遍。 请您再说一遍。 请您再说一遍。Potrebbe ripetere? 请您再说一遍。 好的，大家仔细听。 请 prego。 请 再说一遍 ripetere。 再说一遍。 请您再说一遍。Potrebbe ripetere? 请您再说一遍。 请您再说一遍。 好的，大家仔细听。 Oltre a 请您再说一遍 puoi anche dire 请慢一点说。 请慢一点说。 请 significa prego。 请。 慢 lento。 慢。 一点 un po。 一点。 说 parlare。 说。 请慢一点说。Potrebbe parlare più lentamente? 请慢一点说。 请慢一点说。 啊，对不起，刚才我说的可能太快了。 慢一点 più lentamente。 慢一点。 说 parlare。 说。 请慢一点说。 请慢一点说。Potrebbe parlare più lentamente? 请慢一点说。 啊，对不起，刚才我说的可能太快了。 Abbiamo trasmesso il dialogo completo di oggi. Speriamo che abbiate capito tutti. Ora passiamo alle note di cultura cinese. Note di cultura cinese. Nelle università cinesi le dimensioni dei corsi delle varie facoltà differiscono notevolmente. Nei corsi di lingue straniere ci sono spesso solo una decina di persone per concedere ad ogni studente l'opportunità di fare la pratica, mentre certi corsi comuni molto apprezzati hanno un pubblico di centinaia di studenti. In passato nei corsi universitari di solito gli studenti ascoltavano e gli insegnanti spiegavano, mentre oggi gli studenti partecipano sempre più alle attività didattiche. Ad esempio, preparano mostre e presentazioni dei contenuti dei corsi, mentre anche gli insegnanti amano organizzare discussioni durante i corsi. Tramite queste attività di studio-insegnamento, gli studenti possono padroneggiare ancora meglio le nozioni, formando nel contempo la loro capacità di analisi e soluzione dei problemi, organizzazione, coordinamento e cooperazione di gruppo. La nostra lezione di oggi termina qui. Prima di concludere, vi proponiamo come al solito un piccolo test. Come si dice in cinese? Potrebbe parlare più lentamente? Se conoscete la risposta, siete pregati di comunicarcela all'indirizzo email criitaliano@yahoo.com.cn. Ripetiamo, criitaliano@yahoo.com.cn. Se volete delle informazioni più dettagliate, siete invitati a visitare il nostro sito internet italian.cri.cn. Grazie dell'ascolto e a risentirci alla prossima puntata. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, vi ricordiamo che Radio Cina Internazionale trasmette quotidianamente sulle onde medie, sulla frequenza di 1458 kHz, dalle 19 alle ore 20.